buongiorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno dottoressa. Pronto? Sì, sì. Cioè, ci siamo un po'. Qua siamo dottoresse, infermiere, sì, giornaliste, conduttrice. Mauro. Buongiorno, salve, ascolti, niente. Buongiorno, benvenuta. Dottoressa, grazie. Un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Gli anni d'oro del Gran Real, gli anni di Happy Days e di Barbals, gli anni delle messe compagnie, gli anni in motorino sempre in due. Già lo sapevamo, Deborah, ma adesso sì, ne abbiamo la conferma. Sì. E arriva da un centro di ricerca. Perché mi guardi così? Perché guardi le rughe? Guardo le mie, guarda, allora, tranquilla. Comunque arriva da un centro di ricerca molto prestigioso, la Duke University. Il tempo e quindi anche gli anni, come cantano gli 883, fa preferenze. Su alcuni ha un passo leggero leggero, su altri segni più visibili. Allora la domanda di oggi è: quanti anni avete, come li portate e aggiungerei quanti ve ne sentite? Aspetto le vostre risposte al nostro numero verde 800 24 00 24. Ma intanto, a chi dimostra tutti i suoi anni, forse anche qualcuno di più, e naturalmente invidia un po' il collega coetaneo che non ha una ruga né un capello bianco, voglio anticipare un risultato emerso della ricerca di cui parleremo tra poco, e cioè che l'invecchiamento inizia da giovani e che già prima dei 40 anni le sue impronte sono osservabili nei tessuti del corpo. Quindi probabilmente il vostro collega che non ha una ruga potrebbe avere il fegato, la cartilagine del ginocchio un po' più vecchia di voi, potrebbe, della serie non facciamoci trarre in inganno dalle apparenze. Uscendo un po' dai luoghi comuni, sforziamoci di considerare il passare degli anni come una straordinaria opportunità che la vita ci regala. Quindi 800 24 0024, diteci che età avete, quanti anni vi danno e soprattutto come vi sentite. Nella seconda parte della trasmissione continueremo a parlare degli anni che passano, perché parleremo di pensioni, perché tanto questa longevità dobbiamo gestirla in qualche maniera. Ritorniamo su una notizia che avevamo già avuto modo di approfondire nelle scorse settimane, sulla quale è necessario però ritornare. Ricordate la sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato una parte della riforma Fornero, quella parte che bloccava per il biennio 2012-2013 le rivalutazioni di tutto un gruppo molto importante di pensioni. Come sapete, questa rivalutazione è stata sbloccata e il 1 agosto arriveranno i rimborsi per tutti i pensionati interessati. Sono più di 3,5 milioni. Rimborso che avverrà in automatico, però bisogna fare attenzione perché questo non avverrà per tutti nella stessa modalità. Qualcuno dovrà attivarsi con una richiesta specifica. A chi va fatta? Chi deve farla? Mano alla cornetta, pronti con le vostre domande all'800 24 0024. Ne parleremo dalle 11.45. Quanti anni hai stasera? Se volete dircelo 800 24 0024. Ci sono giorni in cui ci sembra di essere un ragazzino, altri giorni un vecchierello. Per fortuna in mete prevalgono quelli lì. Il tempo comunque non scorre uguale per tutti, tutte ne abbiamo esperienza, tutti noi sappiamo che il passare degli anni ci segna in modo diverso, ad esempio nel fisico, nella mente, ma anche, aggiungerei, nella voglia di fare, di progettare, di gustare la vita. Che cosa di voi è rimasto giovane e che cosa invece sembra sensibile al passare degli anni? Oggi baseremo sulla nostra esperienza, ma un domani forse il nostro invecchiamento potrebbe essere misurato, valutato con rigore scientifico e chissà mai anche rallentato o corretto. Ma a proposito di tempo, tempus fugit, non voglio perdere tempo e quindi do il benvenuto al professor Giuseppe Remuzzi, responsabile delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, professore, la puntata di oggi prende spunto da una ricerca che abbiamo anche letto sui quotidiani nazionali della Duke University, che ha ruolato 1038enni in modo che il campione avesse la stessa età anagrafica. Ne ha misurato l'età biologica per valutare e misurare eventuali discrepanze con quella anagrafica. Professore, ma prima di raccontare i risultati ci aiuti un po' a capire esattamente che cosa si intende per età biologica. Sì, l'età biologica è quella che noi possiamo attribuire a un individuo considerato le condizioni e la funzione dei suoi organi e dei suoi apparati, che noi valutiamo rispetto a standard di riferimento. È in parte correlata all'età anagrafica, ma l'età biologica è influenzata da tanti altri fattori. Per esempio, i geni hanno un'importanza, i comportamenti, lo stile di vita e l'alimentazione e certe situazioni ambientali, per esempio il clima, per esempio l'inquinamento. Professore, la ricerca ha dimostrato però che ci possono essere delle variazioni significative, anche di circa 20 anni, tra età anagrafica e età biologica. D'altronde non c'è da stupirsi, perché ho letto i risultati di uno studio che è stato pubblicato da poco, che deriva dal lavoro di un'equipe di ricerca che ha unito studiosi statunitensi, israeliani, inglesi e neozelandesi, che sottolineava che dal punto di vista biologico si possono accumulare anche 3 anni insieme ogni anno. È così, professore? Sì, certo. Noi quando vediamo una persona, diciamo, come se li porta bene. A me capita tantissime volte con i miei ammalati, faccio il giro al mattino, vedo uno e gli chiedo: ma scusi signore, lei quanti anni ha? 85, come 85? Mi dimostra 65. Ecco, questa è una cosa che succede molto spesso. E una cosa straordinaria è che noi, per esempio, abbiamo la possibilità di prendere un pezzettino di rene prima di fare il trapianto a chi è donatore di organo ed è morto per altre ragioni, per esempio un incidente stradale. Possiamo trovare delle persone di 50 anni, quando guardiamo il suo rene al microscopio prima di trapiantarlo, vediamo che sembra il rene di un ragazzo. Capita un'altra persona che ha 50 anni, guardiamo il rene al microscopio, sembra il rene di una persona di 80 o 90 anni e allora non lo trapiantiamo. È proprio come avete detto, l'età non ha la stessa influenza su tutti gli organi e qualche volta l'apparenza inganna. La cosa bellissima di questo studio, però, di questo studio che è pubblicato su una cosa che si chiama Proceedings of the National Academy of Science, è che loro hanno proprio studiato dei ragazzi di 30 anni e li hanno seguiti nel tempo. Hanno studiato una serie di parametri che si possono misurare, anche le persone volendo potrebbero misurarle, ma è estremamente complicato. Questi parametri sono, per esempio, come funziona il cuore e il respiro, com'è la circonferenza dell'addome, com'è l'indice di massa corporea, com'è la pressione del sangue, i telomeri dei globuli bianchi, cioè dei cappuccini che ci sono sopra i cromosomi, la creatinina per guardare il rene, i trigliceridi, il colesterolo, quanto sono sane le gengive e tante altre cose. E alla fine hanno dato una cosa che i medici chiamano score, un punteggio. In base a questo punteggio loro hanno stabilito chi, avendo 38 anni però ne dimostra, come dicevate, 60, o chi, avendo 38 anni, ne dimostra 20. Un domani forse, professor Remuzzi, riusciremo, no, a saperlo, a misurarlo. Adesso, oggi, la puntata vuole essere anche un'occasione per confrontarci al nostro numero verde e per capire gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione, magari partendo dagli indicatori che abbiamo negli esami del sangue, se ci sono dei biomarcatori, per capire come gli anni ci segnano e se ci segnano in modo più o meno pesante. 800 24 00 24, una cosa interessante che la ricerca ha evidenziato, e vorrei sapere il suo parere, professor Remuzzi, è che ci sono organi e tessuti che invecchiano meglio di altri. Ad esempio, si legge che il cuore è giovinetto mentre il seno è più vecchierello. È così, professore? Lei è d'accordo? Ma non lo so, questo è molto complicato, perché quelli che hanno misurato questi tessuti per stabilire chi è più giovane e chi è più vecchio l'hanno fatto guardando i geni che si trovano in certe cellule, e col passare del tempo questi geni subiscono delle modificazioni biochimiche che si chiamano metilazione. Sì. Loro hanno guardato quasi 400 geni, hanno visto che circa 200 vengono ipermetilati, cioè hanno una eccessiva metilazione con l'età, degli altri circa 150 vengono invece ipometilati con l'età, cioè hanno una metilazione ridotta. e questo influenza la funzione di questi geni. Allora, guardando questo numero enorme di geni, tra quelli che sono più metilati del normale o meno metilati del normale, hanno concluso questo tessuto, per esempio il seno è un pochino meno giovane di quanto non potrebbe essere il cuore di quella stessa persona. Però la cosa è molto più complessa, perché adesso per esempio qualcuno ha voluto provare proprio in questi giorni a rispondere alla domanda perché le donne vivono più degli uomini. Secondo me è perché sono più fortunate, le donne sono più fortunate. Solo per quello, professore. No, dai, sono anche un po' più disciplinate. Rappresenta un vantaggio da tutti i punti di vista, un vantaggio enorme. Ve lo sta raddrizzando che... la direzione, professore Remuzzi. Devo dire che il professor Remuzzi è molto a favore delle donne, però... Sì, ma lei... è una cosa meravigliosa essere donna, c'è un vantaggio da tutti i punti di vista, insomma, si decide il destino del mondo, si decide tutto, gli uomini fanno quello che vogliono, le donne nella sostanza, insomma non è che anche vogliamo... su questo avrei qualcosa da ridire, però vabbè. Non è che vogliamo che moriate, che voi morite prima, comunque, ma noi si vede che siamo genetici, oltre a tutti gli altri svantaggi più resistenti, abbiamo anche quello di morire prima, e di morire prima considerevolmente prima, insomma diversi anni prima. Però chi è che fa morire prima l'uomo rispetto alla donna? Non si sapeva. Adesso quello che si sta cercando di capire, che si è capito proprio in questi ultimi giorni, c'era anche un bellissimo articolo sul New York Times in questi giorni su questa cosa qua, è che il cuore degli uomini si deteriora più rapidamente. Quindi è vero che il cuore è più resistente comparato ad altri organi nella ricerca della metilazione del DNA, però è il cuore che rende ragione del fatto che gli uomini muoiono prima delle donne, quindi vuol dire che quel cuore lì si deteriora prima del fegato, del rene, del cervello, se no queste persone, dei polmoni, se no morirebbero di altre ragioni. Quindi è una cosa complessa, interessante, speculativa, però certo ci fa capire che stiamo incominciando ad accorgerci di cose di cui prima non avevamo la minima idea, e questo ci porterà certamente a capire cosa fare per proteggere quegli organi che noi vorremmo non si deteriorassero. 800 24 00 24, vi abbiamo chiesto quanti anni avete, se volete raccontarcelo, ma potete anche dirci quanti anni vi sentite e che cosa dicono di voi. Siete una persona che è giovanile, siete invece una persona che sente e dimostra tutti gli anni che ha? O se non vi dicono amici? Niente, perché evidentemente si dimostra qualcosa di contrario. Poi si va a giornate. Altro che, ci sono certi giorni in cui veramente lo specchio restituisce qualcosa di incredibilmente inaccettabile. Andiamo da Donatella, che ci chiama dalla provincia di... no, anzi, senza provincia, ci chiama da Mantova. Buongiorno Donatella, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, grazie. Grazie. Io a lei. Ho 58 anni. Sì. E me ne sento, finché non mi guardo allo specchio molto da vicino, cioè quello del bagno ingrandente, mi sento 15 anni di meno, 20 anni di meno, perché mi sento bene, mi piace quello che faccio, mi piace la mia vita, sono molto soddisfatta. Ho una salute assolutamente invidiabile, sì. Credo di avere degli anticorpi grandi come dei topi di campagna, quindi no, delle pantegane. Brava, delle pantegane, non volevo dire... Delle nutrie, se vogliamo. Delle nutrie, visto che sono di Mantova, quindi noi abbiamo le nutrie. Quindi delle nutrie, oltre a delle zanzare enormi. Sì. E quindi sono sicuramente molto fortunata, sicuramente ho fatto un grosso lavoro su di me per quello che è il carattere e il modo di affrontare la vita, perché sono nata Scorpione, ma poi mi sono evoluta nel tempo, quindi ho lasciato perdere le vendette lungo la strada, ho lasciato perdere... Ed il lavoro su di sé aiuta, Donatella, perché... Il lavoro aiuta tantissimo, il mio è un lavoro che a me piace molto, è un lavoro che per chi non lo ama sembra un lavoro molto stancante, perché io lavoro in una multinazionale americana, passo un giorno in ufficio, gli altri giorni in giro per l'Italia, qualche volta faccio qualche puntata anche in giro per l'Europa, nelle nostre varie quindi sedi. Quindi lo stress, Donatella, c'è, è e sappiamo... positivo. Ecco, però... Questo è uno stress, il mio è uno stress positivo. Vorrei un commento del professor Remuzzi, perché Donatella ci ha raccontato, ci dà uno straordinario esempio, professor Remuzzi, a parte che adesso Donatella, come tutte noi, sappiamo che abbiamo un cuore che funziona meglio di quello degli uomini e dura più a lungo, più resistente. La natura sa a chi dare i buoni cuori. Professor Remuzzi. Ma questo è molto importante perché tra le altre cose che abbiamo visto nel preparare questa puntata con voi, c'è questo lavoro dell'Lancet sulla mortalità a 5 anni. Sì. E questa qui la si può predire facendo alle persone delle domande. Ecco, una delle domande è com'è che tu giudicheresti il tuo stato di salute? Buono, eccellente, modesto, pessimo? Ecco, Donatella lo giudica eccellente e una di queste domande che servono a predire quanto uno vivrà è proprio questo, quindi come uno si sente è fondamentale. Uno può avere 80 anni e quando dice me ne sento 50, quello lì vuol dire è un indice molto importante, sembra una cosa semplice, una cosa banale, invece è un indice estremamente importante. Mi sembra che Donatella avrà fatto degli esami di laboratorio oppure non li fa neanche, perché sta benissimo, quando uno sta bene in realtà non ce n'è bisogno. Sono tutti elementi che in questa famosa serie di domande, rispondere alle quali serve a capire quanto vivrai, lei si colloca in una situazione molto favorevole. Poi dopo la vita è fatta anche di cose impreviste, certo. E quello è un altro ragionamento, insomma. Professore, su internet ci sono fior fiori di questionari che propinano decine e decine di domande al fine di recuperare il valore della pressione, quello del colesterolo, il tempo dedicato all'attività fisica, allo stile alimentare, a cui si aggiungono altri quesiti come l'uso del telefonino, il numero di amici, lo stato sentimentale, la soddisfazione lavorativa. Alla fine di queste domande, circa sono una trentina, si riesce ad avere l'età biologica e quindi a confrontarla con quella anagrafica. Io ne ho fatte due di questi questionari ieri, sai, è un po' risultato. Un gioco, sono in uno avevo 5 anni meno dell'età anagrafica, nell'altro un po' di più, ma insomma ero soddisfatta. Professor Remuzzi, lei che cosa ne pensa? Sono giochi o hanno una certa attendibilità? Sono giochi che hanno una certa attendibilità, naturalmente l'attendibilità non è assoluta, però c'è una cosa molto interessante che viene da questo studio che hanno fatto sempre a Duke University con cui abbiamo esordito. Vi dicevo che loro prendevano tutti questi parametri che includono esami di laboratorio, parametri complicatissimi, e avere tutti insieme quantomeno, poi facevano uno score e viene fuori l'età. Questo score che vuol dire poi una classifica e viene fuori un'età che può essere diversa da quella anagrafica, discostandosi anche di molto. Poi hanno fatto un'altra cosa, hanno preso degli studenti i quali non sapevano dello score di queste persone e gli hanno fatto vedere la fotografia di tutte queste persone. Quello che viene fuori dall'analisi del rapporto degli studenti che guardavano una persona e gli giudicavano l'età corrisponde perfettamente ai questionari, agli esami di laboratorio, a tutto quello che avete detto voi. Quindi il questionario non è proprio un gioco, è interessante perché dà un'indicazione, ma la cosa che fa emergere il buon senso come il principe di tutte queste indicazioni è che quando gli studenti guardano la fotografia della faccia di una persona sono capaci di giudicare l'età biologica esattamente come fanno tutti questi test e tutti questi questionari messi insieme. E quello è molto bello perché dice quando le persone ti guardano e ti danno un'età, ti trovo bene, come sempre giovane, certe volte lo si fa per galanteria, ma se uno è sincero, lui è in grado come di mi giudicare. Trovi, Debra? Splendente come sempre. Anche tu. Peccato che non è venuto il professor Remuzzi in studio, così ce lo facevamo dire da lui, ma lui è gentile, ci avrebbe detto che stiamo benissimo. Come sta Marco dalla provincia di Reggio Emilia invece? Buongiorno. Buongiorno. Quanti Sono anni Marco si sente? Ma io ne compio 58 dopodomani. Auguri. grazie. Però io regaliamogli un libro. Avevo... Che libro vuole, Marco? Ti mandiamo anche una magliettina di Radio 24. Va bene, d'accordo. Grazie, sì, va bene. Allora... Io mi sento come quando ne avevo 40, per la verità. Io sono in peso forno perché sono 70 kg per 1,77 di altezza e non ho pancia, non ho niente, quindi però ho leggermente il colesterolo un po' alto perché... Probabilmente non sono molto corretto nell'alimentazione, o meglio, diciamo che cerco di essere, io vivo in campagna e però faccio un lavoro che mi richiede molta energia e quindi sono anche un mangione per certi versi. Però il suo girovita, Marco, com'è? Ah, è perfetto, adesso perfetto. Non so neanche dire. però non ho un filo di pancia, quindi insomma. Ecco. Non le ho fatto questa domanda a casa, il professor Remuzzi ci potrà ne avevamo parlato anche in puntate precedenti, perché professor Remuzzi, è vero che c'è un l'invecchiamento e il sovrappeso hanno dei meccanismi comuni, detto in altro modo, insomma, sì, la persona magra, la persona normopeso più che magra, invecchia in modo più equilibrato, meglio? Sì, assolutamente, ci sono dei meccanismi che portano ad invecchiare precocemente e che portano anche ad accumulare il tessuto adiposo. Sono dei meccanismi che passano sostanzialmente per l'infiammazione, per la formazione dei cosiddetti radicali liberi, di cui si sarà parlato tantissime volte, che sono delle sostanze che vengono dall'ossidazione delle proteine e di tante altre sostanze che danneggiano la cute, gli organi, i vasi sanguigni, tantissimi dei tessuti, e che portano anche ad accumulare grasso. Quindi c'è un rapporto assolutamente tra queste due cose. Insomma, questo, le cellule invecchiano meno nostro, se assumiamo meno calorie, sì, sì, e questa certo, è un po' la morale. Certo. Poi c'è una teoria sulle calorie: se noi riuscissimo davvero a ridurre le calorie e a mangiare per esempio un giorno sì, un giorno no, oppure lasciare un certo periodo tra un pasto e l'altro, 16 ore, noi non siamo fatti per mangiare 3 o 4 volte al giorno. Vedi, è la stessa cosa di cui abbiamo parlato il professor Walter Longo. E quindi il fatto che la comunità scientifica concordi sul fatto che la restrizione calorica possa essere uno strumento, una strada per invecchiare meglio, no, professor Remuzzi? Sicuramente così negli animali, e probabilmente negli animali piccoli. Per esempio i topi e ratti è sicuramente così, su quello non c'è dubbio. Quando hanno fatto gli studi sulle scimmie è stato un pochino più difficile documentarlo, però sostanzialmente è così, e quello che si è visto per tutto il resto è che per esempio quando non si assumono calorie per un certo periodo, noi abbiamo cellule staminali un po' dappertutto in tutti gli organi, e queste sono cellule che sono lì un po' per riparare piccoli danni e anche in un certo senso per mantenerci giovani. Quelle cellule staminali lì si sentono come in una condizione di stress, sottoposte a poche calorie, dicevano poca alimentazione in un certo senso, poca energia, allora sono un pochino stressate. Queste cellule in quel modo lì si mantengono giovani. Vedi? E quindi funzionano meglio. Stressiamo le nostre cellule. Allora, adesso dobbiamo andare a sentire i mercati, il professor Remuzzi naturalmente resta con noi, e nell'attesa che sia a disposizione di tutti un modo per misurare questa età biologica, cerchiamo di capire alla luce delle conoscenze attuali, degli strumenti che abbiamo a disposizione, che cosa fa invecchiare precocemente o male i nostri organi, il nostro fisico, e soprattutto se ci sono parametri, biomarker che possono segnalarcelo. Allora, che dite? Andiamo un po' a prendere gli esami del sangue, delle urine. Professor Remuzzi, possiamo darle poi qualche valore, perché così lei ci dà un quadro della situazione? Facciamo questo invito ai nostri ascoltatori. Pressione, peso, colesterolo, glicemia, creatinina, insomma, fuori gli esami, fuori i valori, adesso invece i numeri ce li danno i mercati. Sì, intanto però volevo salutare Alberto, Carlos, Luigi, Giorgio e un altro ascoltatore che non si firmano, perché hanno scritto tutti e quattro, praticamente quasi in simultanea, lo stesso messaggio. Le donne vivono di più perché non prendono moglie, perché secondo me sono degli amici che stanno lavorando tutti insieme adesso nello stesso ufficio. Carini. E che strategicamente ci hanno tempestato con lo stesso messaggio. Noi forse salutiamo. Hanno ragione loro. Probabilmente sì, sai che ti dico? Mercati. Cuore e denari. Passano gli anni ad aspettare di pigliare la pensione, non dover più lavorare. Non cominciamo il dibattito, questa è una mazurka, non è un valzer, non apostrofare questo ballo con termini inappropriati, perché lo sai che gli ascoltatori si inalberano poi stamattina. Bocca cucita. Guardate che ballare vi fa vivere più a lungo, tra l'altro, l'abbiamo detto tante volte, che gran puntate abbiamo dedicato all'argomento, magari una estiva ce la possiamo anche buttare dentro, no? Dalla balera dell'Ortica dovremmo andare a fare una perché diretta. Perché adesso le piazze d'Italia si trasformano e danno spazio naturalmente anche a tutti i provetti ballerini con le orchestre e quant'altro. Insomma, allora stiamo parlando di longevità, stamattina viviamo più a lungo certamente dei nostri nonni e probabilmente anche dei nostri genitori, ma la nostra preoccupazione è che gli anni della vecchiaia vengano vissuti con un tenore di vita adeguato, sereno. Ecco perché il tema delle pensioni è sempre di grande attualità e lo è soprattutto in questi giorni in cui circa 3 milioni e mezzo di pensionati stanno per ricevere, e l'ora X scatta il 1 agosto, il rimborso INPS derivante dallo sblocco delle rivalutazioni, rivalutazioni che erano ferme nel biennio 2012-2013, lo ricorderete, per effetto della riforma Monti-Fornero. Lo sblocco è stato sancito dalla Corte Costituzionale, l'INPS ha spiegato che i rimborsi saranno accreditati in automatico, ma ci sono dei casi in cui, come suggerito anche da molti CAF sul territorio, è bene inoltrare una domanda per avere diritto a questo rimborso. Allora, se avete domande su questo punto, preparatele, cominciate a farcele all'800 24 00 24 perché noi vi richiameremo alle 11.45. I migliori anni della nostra vita. In pensione, ma con l'età biologica di un ragazzino, mica male, eh? Sarebbe il top. Vabbè, proprio, insomma, direi. 800 24 00 24, cerchiamo di conoscere gli strumenti che oggi la medicina ha a disposizione per misurare la qualità del nostro invecchiamento. Ci aiuta il professor Giuseppe Remuzzi, responsabile delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Intanto che andate a prendere i vostri esami del sangue, delle urine, o ci dite il vostro girovita, ci raccontate che cosa state facendo e che cosa avete fatto per così invecchiare bene, e si inizia a invecchiare, professor Remuzzi, da giovani. È inevitabile. Sì, certo. Ecco, questo è una cosa fondamentale, quello che è poi la filosofia che sta dietro tutto questo lavoro di cui abbiamo parlato, quello che ha pubblicato su Pras, è che per quanto riguarda l'invecchiamento, tutti si sono occupati di andare a studiare come si invecchia prendendo degli adulti o prendendo delle persone che avevano già superato la soglia dei 60 anni, per esempio. Tutti gli studi che abbiamo sono di questo tipo. Invece, per capire come si invecchia o come si potrebbe invecchiare bene, bisogna cominciare a studiare i giovani, questa è la cosa fondamentale. Questo è importante perché non si riesce a rallentare l'invecchiamento modificando le abitudini a 40, anche a 40-40, bisogna iniziare prima ad acquisire delle abitudini giuste subito, quando i bambini sono molto piccoli. Questa è una cosa fondamentale di tutte queste ricerche. Il messaggio più importante che possiamo dare ai nostri ascoltatori è l'invecchiamento comincia subitissimo e quindi noi quando dobbiamo, nasciamo praticamente, sostanzialmente sì, e questa è la cosa più bella che viene da tutte queste ricerche. Non ci succede se come vogliamo Benjamin Button, non so se ha visto il film, professor Remuzzi, che invece aveva il percorso contrario, era nato vecchio e ringiovaniva, ecco, chiusa parentesi. Sai che citando il film mi viene in mente che di chiedere al professor Remuzzi una cosa, l'ha raccontata anche sulla pagina del Corriere della Sera. Lei lo scorso anno, proprio come Angelina Jolie, ha fatto il test del DNA per conoscere il rischio di malattie genetiche, no? Abbiamo parlato adesso di tutti questi questionari che si trovano su internet per valutare l'età biologica, ci sono però poi dei test che sono in parte giochi, invece ci sono dei test proprio fatti per bene, in modo serio, e che sono ad esempio quelli del DNA. Lei che cosa l'ha spinta a farle? Soprattutto lo rifarebbe? Lo consiglierebbe? Sicuramente lo rifarei di sicuro. Io ero fondamentalmente curioso, ero fondamentalmente curioso di sapere, il DNA è come il libro delle istruzioni. E allora uno che ha la macchina, che è curioso di guardare come funziona la macchina, guarda il libro delle istruzioni. Io non l'ho guardato mai nella mia vita. Invece il libro delle istruzioni del mio organismo, quello sì mi interessa, ma mi interessa intanto per sapere, ma mi interesserà anche per capire come si fa, quanto sono affidabili i risultati, quanto ci vuole per averli, chi li interpreta, chi lo fa, quanto costa. E mi interessava anche per i miei ammalati, perché un giorno il test del DNA sarà disponibile per tutte le persone, si farà. C'è qualcuno che sostiene che potrebbe anche essere vantaggioso dal punto di vista dei costi. A proposito dei denari, vedi. Che l'esame del DNA fosse suggerito e fosse addirittura carico del Servizio Sanitario Nazionale. Non so se arriveremo lì, però uno dice, ma costa tanto. Tra un po' costerà poco, ma Ma poi si possono prevenire tante cose. Il DNA non dice di cosa muori e non dice neanche necessariamente di cosa ti ammali, però ti dice che cosa ti cosa dice rischi. Allora che cosa ti rischi? Dice qual è il rischio di sviluppare una malattia. E poi la malattia, ma la ad esempio professor Remuzzi, se ti dice questo test che rischi di sviluppare una malattia per la quale al momento non ci sono cure, che cosa che cosa succede? Non succede niente, nel senso che lo sai, e qualcuno che però ci sono, mettiamo un caso per cui non c'è cura, è l'Alzheimer. Infatti, e pensavo DNA a quello. Ti può dire che hai una predisposizione all'Alzheimer. Uno però si può organizzare, perché naturalmente è brutto dirlo mentre uno sta bene, però avere un ammalato di Alzheimer in casa vuol dire avere tutta una quantità di cose organizzative che devi mettere in atto. Se tu lo sai prima ti puoi organizzare, quindi qualcosa serve, certo. È meglio se uno ti dice tu hai un rischio importante di tumore del colon, e allora fai un esame che ti consente, la colonoscopia per esempio periodicamente, che ti consente di cogliere nelle fasi iniziali questo tumore del colon, sì. E quello guarisci. Se tu vieni operato nelle fasi iniziali guarisci, fai una vita normale dopo. Se invece del tumore del colon ti accorgi quando è avanzato, allora non ci sono tante prospettive di guarire. Per cui veramente qualche volta l'esame del DNA ti può aiutare, anche se un forte aiuto viene dalla storia familiare. Certo. Guardando la storia familiare si hanno moltissime informazioni. Professore, non certo è un mondo assolutamente affascinante, quello del DNA è un mondo affascinante, e l'idea che tu puoi guardare il libro delle istruzioni su come sei fatto tu. Lei, tra poco il libro delle istruzioni potremmo guardarlo a dei costi più contenuti. Secondo lei quando questo si realizzerà? Ma io credo nel giro di 10 anni. C'è qualcuno, per esempio in Inghilterra adesso hanno lanciato una cosa che chissà che non venga lanciata anche in Italia un giorno o l'altro, c'è già qualcuno che ci sta pensando, per fare l'esame del DNA a 100.000 persone, di vedere che cosa gli inglesi rischiano di più. E questo è importante, per esempio, perché diventa uno strumento di salute pubblica. Certo. Ci sono tante iniziative di questo genere, e io penso che nei prossimi 10 anni cambierà tutto, perché fare il test sarà molto semplice, sarà più affidabile. L'interpretazione, che adesso è molto difficile, adesso l'interpretazione si fa soprattutto negli Stati Uniti. Io mi hanno detto che sono uno dei pochissimi, forse l'unico essere umano che ha avuto il suo DNA interpretato da due compagnie che l'hanno interpretato in modo complementare, uno per il rischio di malattie e uno per tutti i geni che non conosciamo, e per cui non sono stati fatti in rapporto al rischio di malattie. Però è veramente una cosa molto affascinante, molto importante sul piano medico, che cambierà secondo me la medicina. Professor Remuzzi, grazie per essere stato con noi, torni a trovarci prestissimo, parleremo anche naturalmente dedicheremo magari una puntata al test del DNA. Salutiamo Cristian dalla provincia di Salerno. Sentiamolo, perché c'erano Buongiorno. Tante belle testimonianze. Cristian, eccoci a lei. Buongiorno. Prima c'è tutto anche chi ringrazio. Ci manda la ricetta della longevità propria, come Gianfranco da Roma. Magari a dirla. La pubblichiamo sui nostri siti, Cristian, ma credo che ognuno abbia la sua personale, no Nicoletta? In questo caso sì, io chiamo anche per questo. Prima di tutto per ringraziarvi entrambe, perché ascoltando la vostra trasmissione mi sono deciso poi a mettermi un po' al regime alimentare un po' più corretto. Ah, mi sono imbattuto in un nutrizionista che mi ha dato un regime alimentare, però differentemente da quello che diceva il professore, io mangio 6 volte al giorno, con 3 pasti principali e 3 merende anche dopo cena. Sì. E, tenendo secondo questo nutrizionista a bada la curva glicemica, non si attiva l'insulina, tutta una serie di cose. Cristian, lei è dimagrito, è vero? Ecco, professor Remuzzi. Ecco, professor Remuzzi, Cristian è dimagrito, guadagna salute, guadagna anni di vita? Beh certo, sicuramente. Se uno ritorna nel peso normale, guadagna salute, guadagna anni di vita e guadagna salute di tanti organi, ecco, per esempio il fegato, di cui non abbiamo parlato, ma che è sensibilissimo all'alimentazione. Allora, quindi Cristian ha fatto benissimo, poi spuntini sì, spuntini no, e così abbiamo il tema per un'altra puntata. L'importante è che siano sempre di qualità, poi no, a prescindere dalle quantità ingurgitate durante la giornata, anche questo credo che sia un aspetto. Professor Remuzzi, l'aspettiamo negli studi di Radio 24, quando ma viene? Presto, quando viene? Facciamo a settembre o anche vedi come l'abbiamo inciso sulla pietra, l'abbiamo inciso sulla pietra a luglio e a settembre, così due volte. Grazie prof, buona giornata. Grazie. Suggerimenti per chi è in viaggio, poi suggerimenti invece per chi ha diritto ai rimborsi dell'INPS per la famosa sentenza della Corte Costituzionale che ha sbloccato il blocco delle rivalutazioni, insomma una questione complicata ma che ben conoscono i pensionati interessati. Ne parleremo tra qualche istante. Cuore e denari. Scusi tanto signora, sa dov'è che danno le pensioni? Di là? Grazie, molto gentile. Filini? Chi è? Io, Fantozzi. Qui, carissimo Fantozzi, come va? Anche ecco. Per prendere la pensione, suppongo. Sì, la c'ha il numeretto. Ma dove andiamo? Lì, venga, l'accompagno. Grazie, Fantozzi, che paccia questa pensione. Si prendono i soldi senza lavorare. Allora, sì, effettivamente la longevità a volte paga, anche se effettivamente con tutte le misure legislative che si sono accavallate negli ultimi anni, qualcuno è un po' scoraggiato di altri, un po' più scoraggiato di altri e forse non troppo contento di essere tanto longevo. Ma intanto vediamo di concentrarci come dire, sul bicchiere mezzo pieno e sulla buona notizia che abbiamo. Estate un po' più ricca per un bel po' di pensionati italiani. Perché? Perché l'INPS con l'assegno di agosto pagherà i soldi trattenuti negli ultimi 4 anni con i tagli alle rivalutazioni che erano stati decisi dal governo Monti nel 2011 con il famoso pacchetto Salva Italia. Questi tagli sono stati bocciati di recente dalla Corte Costituzionale e allora l'INPS ha spiegato che naturalmente si ha diritto a questi rimborsi che saranno accreditati in automatico, ma ci sono alcuni casi, come suggerito da molti CAF, da molti centri di assistenza fiscale sparsi sul territorio, in cui è bene inoltrare una domanda per avere diritto a questo rimborso, per cui ci è sembrato utile oggi fare un riepilogo della situazione e si è reso disponibile per noi ancora una volta l'amico Fabio Venanzi, esperto di questioni previdenziali per il Sole 24 Ore. Fabio Venanzi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Eccoci qua. Allora, intanto arrivano già messaggi e telefonate, per esempio ne racconto già un paio, tanto per manifestare subito le criticità dell'operazione al rimborso. Mi sono recata al patronato per fare la domanda all'INPS per mia madre defunta ad aprile, ma non c'è ancora la modulistica, adesso cercheremo di capire se è così, anche se Venanzi è informato sulla questione. Mick da Bologna, mio suocero, è stata bloccata appunto la pensione nel 2013, è deceduto. La moglie prende la reversibilità, riceverà qualcosa o deve fare domanda. Sono proprio questi i casi dei quali vorremmo parlare, oltre al riepilogo generico della situazione. 800 24 00 24 il numero verde per voi, e vedo già che sono pronti Giovanna da Pisa e Francesco da Verona. Qua dalla longevità, Nicoletta, anagrafica e biologica, e alle pensioni il tema oggi è azzeccatissimo, quindi i nostri ascoltatori, anche se è piena estate, sono sempre molto attenti ai nostri argomenti. Allora, Venanzi, come abbiamo già avuto modo di spiegare in puntate precedenti, la restituzione di quella rivalutazione mancata sarà parziale e sarà decrescente per gli assegni più ricchi e interesserà le pensioni comprese fra proprio due cifre specifiche, i 1.450 e i 2.850 euro lordi di pensione. Tra l'altro questi dettagli sono indicati per i maniaci dei documenti ufficiali, ce ne sono tanti. Perché ci sono, Altro che... E su questi temi è giusto che lo siano, perché naturalmente è bene essere chiari e precisi. Nella circolare INPS 125, noi ce l'abbiamo proprio sotto gli occhi, che ha definito le modalità applicative di questo decreto, che a sua volta è il numero 65 del 21 maggio. Quindi speriamo di aver detto tutto correttamente. Allora, dottor Venanzi, intanto questa circolare dell'INPS, che cosa indica per la precisione e quali sono i contenuti? Allora, indica in maniera molto tecnica, perché di fatto serve ad applicare il decreto legge 65, come devono essere calcolate e riconosciute le somme spettanti per gli anni pregressi. Abbiamo un doppio binario, una doppia modalità di calcolo per quanto riguarda gli arretrati spettanti nel primo biennio, quindi nel 2012 e 2013, che sono stati i 2 anni dove la perequazione, l'adeguamento all'inflazione non era stato riconosciuto agli assegni superiori a 1450 volte, 1450 euro, quindi tre volte il trattamento minimo, e poi invece un parziale riallineamento per quanto riguarda gli anni successivi, quindi il 14 e il 15, perché in realtà lì la perequazione poi era stata sbloccata dalla legge di stabilità del governo Letta. Il problema di fondo risiede nel fatto che il cosiddetto effetto trascinamento, cioè il riconoscimento dell'inflazione sugli anni 2012 e 2013, non viene poi riportato, diciamo, a nuovo sulle annualità successive, ma costituisce solo un'erogazione una tantum che i pensionati si vedranno erogare il primo di agosto, e solo in minima parte, esattamente il 20%, verrà invece diciamo capitalizzato e portato a nuovo sulle annualità 2014 e 2015. Questo doppio binario è ben complesso, effettivamente. Sì. Magari allora teniamo il focus, dottor Venanzi, sui pensionati a cui questo rimborso spetta, che se lo vedranno accreditato dal primo agosto, e quelli che invece devono fare domanda, devono attivarsi autonomamente, perché altrimenti non lo riceveranno. In realtà tutto questo lavoro noi lo faremo dopo il giornale radio. Magari pesco al volo, ma la deve fare in 10 secondi, la domanda di Francesco dalla provincia di Verona, così incameriamo un po' di materiale. Francesco, velocissimo. Certo, buongiorno a tutti. La mia domanda è questa: mia madre percepisce una pensione di reversibilità, perché purtroppo è vedova, di circa 1200 euro. Volevo chiedere se lei deve fare la domanda e quanto saranno il... Quando è mancato il papà Francesco? È venuto a mancare nel 2004, giugno 2004. Grazie Francesco, le rispondiamo insieme a Fabio Venanzi dopo il giornale radio, tra poco. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Cuore e denari. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai. Mica tanto, guarda che noi qua ancora abbiamo da sgobbare, voglio andare in onda. Sai come si chiamerà fra una decina d'anni la nostra trasmissione? Non so, dentiere e catetere. Protesi e catetere. Esatto. Protesi e bancomat. No, ma saremo invece, come dire, la nostra età biologica umilierà quella anagrafica e andremo in onda invece con la nostra consueta verve. Intanto occupiamoci dei pensionati. Ti è piaciuta questa? Ad agosto ai pensionati verrà pagato parte di quel gruzzoletto che il blocco alla rivalutazione gli aveva tolto. Parliamo di cifre contenute se prese singolarmente, perché il rimborso più alto è attorno ai 1000 euro, che comunque non è da poco perché ci fa fare una bella vacanzina ad agosto, ma sono tanti i rimborsi perché interessano almeno 3.700.000 persone. Oggi stiamo riepilogando i termini della questione nel caso a qualche pensionato avente diritto fosse sfuggita la notizia, anche se dubitiamo, visto che non è proprio un brutto regalo di Ferragosto questo, e soprattutto cerchiamo di capire chi sono coloro che devono attivarsi con una precisa richiesta di rimborso, anche se alla gran parte dei pensionati interessati verrà accreditato in automatico. Allora, siete già tantissimi ad esservi candidati ad intervenire in diretta all'800240024. Come al solito rivolgeremo la consueta batteria di domande al nostro Fabio Venanzi, ma direi, Venanzi, di partire subito con la domanda che ci ha fatto Francesco da Verona, che parlava della situazione della sua mamma, che percepisce una pensione di reversibilità da 1200 euro, se non ho capito male. Sì, ho segnato 1200. Il papà è mancato nel 2004-2006, comunque insomma qualche anno fa. Per questo importo, secondo lei, già percepiva la rivalutazione piena, per cui non deve preoccuparsi del rimborso? Perché se non abbiamo... mi sono persa le prime parole. Esatto. Ho detto dipende. Ah, dipende. Ecco, perché dipende. Se la mamma percepisce solo la pensione di reversibilità del marito, siamo al limite, perché 1200 euro nette corrispondono grosso modo a 3 volte il trattamento minimo, quindi siamo sui 1400-1450. Quindi se è rimasta fino a 3 volte il trattamento minimo, la perequazione l'ha già percepita negli anni passati e quindi non ha diritto a nessun arretrato. Se invece il lordo dovesse essere superiore a 1450 avrà diritto agli arretrati. Il problema però non è tanto l'importo della pensione di reversibilità spettante quanto se la signora è titolare di un trattamento pensionistico proprio, perché la perequazione viene riconosciuta sulla sommatoria delle pensioni che il beneficiario gode. Francesco non l'aveva precisato, immaginiamo che la mamma abbia solamente questo trattamento pensionistico, che è il trattamento di reversibilità. Perché se anche la sua pensione è tutta un'altra storia. Sicuramente avrà diritto a un arretrato, ma occorrendo cumulare i due importi sarà più basso, sarà più basso un arretrato più basso. Allora 800 24 00 24, peraltro abbiamo ricordato la circolare IMSS, la numero 125 del 25 giugno, che riepiloga i termini della questione e riepiloga l'importo del rimborso, tutti coloro che ne hanno diritto, naturalmente, quindi circolare piuttosto tecnica, ma naturalmente per gli appassionati possono andare anche a recuperarla sul sito dell'IMSS. La circolare 125 spiega quello che ha disposto il decreto legge 65, che ha a sua volta praticamente recepito, no, quanto ha detto la Corte Costituzionale, che ha detto sbloccate queste rivalutazioni bloccate. Il decreto legge è stato convertito in legge, dottor Venanzi? Non ancora. Ricordiamo appunto che questo decreto ha recepito gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità appunto della riforma Monti-Fornero nella parte in cui questa aveva bloccato la perequazione delle pensioni. Peraltro, lo ricordo, questa sentenza della Corte ha ritenuto che questa norma avesse leso i pensionati la cui capacità di integrare i propri redditi risulta limitata. Allora, andiamo alle altre domande. Direi che stamattina possiamo proprio dar spazio a tutti i quesiti aperti, perché chi sa già di percepire questo rimborso in automatico dal 1 agosto è sereno. Il tema è capire chi invece deve attivarsi e chi ha qualche situazione un po' ibrida, al limite. Giovanna da Pisa, benvenuta. Buongiorno. La mia domanda è un po' particolare, perché io ho una pensione del mio lavoro e una di reversibilità. Esatto, quindi non ho proprio diritto, la situazione di cui parlavamo prima. Esatto, sì, infatti io non ho diritto a nessuna integrazione, però vorrei sapere, è previsto proprio dalla legge? Perché per le tasse per molti anni non si sono accorti che io avevo questi due redditi, anche se era tutto dichiarato. Mm-hmm. E mi hanno fatto pagare le tasse, diciamo, in modo un po' strano. Non vorrei che mi dessero un rimborso e poi me lo richiedessero indietro. Ecco, e quindi okay. Giovanna, lei allora sa che dice: guardi, non lo voglio, tenetevelo voi. Allora, è veramente strano quando l'INPS non dialoga con il fisco italiano, no, per i trattamenti fiscali dei trattamenti pensionistici, dottor Venanzi. Eppure succede anche questo. Allora, che tipo di risposta possiamo dare alla nostra ascoltatrice toscana? Allora, per quanto riguarda gli arretrati, dobbiamo dire che avranno una tassazione diversa, perché quelli relativi agli anni precedenti, il 2015, quindi il 2012, 13 e 14, andranno a tassazione separata, quindi con un'aliquota media più bassa rispetto a quella che ordinariamente si applica, la cosiddetta aliquota marginale, e in più con la tassazione separata non si pagano neanche le addizionali nella regionale, nella comunale. Per quanto riguarda invece gli arretrati di competenza dal 1 gennaio 2015, quelli entreranno nel cumulo dei redditi di quest'anno e quindi andranno a tassazione ordinaria. Però Giovanna ha già detto che crede di aver capito che non gli spettino queste perequazioni o rimborso parziale appunto delle perequazioni che non sono state effettuate, perché lei dice: ho la pensione di reversibilità di mio marito e il mio trattamento pensionistico, so che già complessivamente appunto mi creano una cifra, un reddito tale per cui non ho diritto ad alcuni. Non avrebbe diritto solo se la sommatoria dei due trattamenti supera 6 volte il trattamento minimo, e quindi parliamo di 2.850 lordi. In quel caso non avrebbe diritto a nessun arretrato, in quanto per le pensioni di importo superiore a 6 volte il trattamento minimo non viene riconosciuta nessuna perequazione. Io non vorrei che quello a cui faceva riferimento Giovanna invece è la percentuale di reversibilità spettante in funzione del reddito proprio goduto, perché noi sappiamo che la reversibilità spetta di norma nella misura del 60%, questo 60% viene abbattuto in funzione del reddito che il percipiente ha, quindi più è alto il reddito individuale personale, più la reversibilità è bassa. Certo. Io non vorrei che faceva riferimento a questo, perché l'INPS su questo viaggia con qualche anno di ritardo nell'acquisizione dei modelli RED, anche se negli ultimi 2 anni di fatto ha allineato i propri archivi con quelli dell'Agenzia delle Entrate, e quindi i dati vengono prelevati direttamente dal fisco. E quindi secondo lei che tipo di controllo conviene fare a Giovanna? Allora, innanzitutto capire se la sommatoria dei due trattamenti, il suo più quello di reversibilità, se supera i 2.850. Se il lordo supera questa cifra non ha diritto sicuramente a nessun arretrato. Se invece rimane sotto a questa soglia, in proporzione le spetteranno Il famoso 40-20-10, esatto. Ecco, che deve calcolare. Allora, ribadiamo certo che cosa consiste. No, guarda, ho mal di testa io, perché poi fino ad un certo punto arrivo. Dopodiché, quando già Fabio Venanzi mi parla della situazione di trascinamento, mi perdo completamente. E quindi ci affidiamo necessariamente ai consulenti previdenziali, rari sul territorio, dobbiamo andare ad un centro di assistenza fiscale, spesso e volentieri agli sportelli IMSS. Insomma, vorremmo che si moltiplicassero a dismisura i Fabio Venanzi della situazione. Noi intanto siamo fortunate ad averlo a nostra disposizione. 800 24 0024, il numero verde per i vostri interventi. Peraltro, Venanzi, stavamo dicendo con Nicoletta, una situazione è quella di chi percepisce la pensione di reversibilità, quindi vedove, superstiti naturalmente. Ci sono anche casi invece di chi è erede in maniera diversa, il figlio di persone che non ci sono più, magari persone che sono venute a mancare da poco, che hanno visto bloccata questa rivalutazione e che potrebbero teoricamente chiederla, no? Naturalmente anche agli eredi spetta questo. Allora, chi si deve attivare in questo momento ascoltando la nostra trasmissione, chi deve drizzare le antenne? Allora, sicuramente devono fare la domanda per vedersi corrispondere le somme dovute tutti quei titolari o aventi diritto di pensioni che risultano in termine tecnico eliminate, cioè che non sono più attive. Noi abbiamo 2 tipologie di eliminazione, chiamiamola così. La prima è il soggetto titolare della pensione, una volta che muore, quella posizione viene trasferita al coniuge o eventualmente ai figli o anche ai figli maggiorenni inabili, e acquisisce un nuovo numero di pensione. In quel caso la circolare non dice nulla, è da presupporre che la ricostituzione e l'erogazione delle somme arretrate avvenga d'ufficio. Invece nel caso delle pensioni però totalmente... è da presupporre, perché sì, in controllo adesso, andiamola a fare adesso diamo la soluzione. L'altra invece eliminazione riguarda proprio quella pensione che è stata eliminata perché magari l'avente diritto è deceduto ed è deceduto anche il coniuge superstite. Che poteva aver diritto alla reversibilità. Esatto, okay. E in questi casi le uniche persone che possono accedere a quell'arretrato spettante al coniuge superstite, che oggi non c'è più, sono i figli. E in quel caso la domanda va fatta sicuramente, perché la pensione è eliminata sicuramente. La posizione reddituale degli eventuali eredi non c'entra nulla comunque, diciamo, fa fede solamente quello che era il trattamento pensionistico del genitore. Sì, rimane fotografato il reddito individuale del superstite, di quello che aveva diritto a percepire quella somma ordinariamente. La soluzione che possiamo dare a tutti quelli che sono nel dubbio se presentare o meno la domanda è di attendere il 1° di agosto e verificare se l'importo della pensione effettivamente è aumentato o no rispetto a quella di luglio. Mi raccomando, ad agosto dobbiamo prestare attenzione, perché possono esserci anche rimborsi da 7.30 o i conguagli negativi da 7.30, e quindi l'importo della pensione potrebbe risultare già falsato di suo, quindi dobbiamo andare a neutralizzare quello che è l'effetto fiscale. Se ad agosto vediamo che la somma comunque non è stata riconosciuta, i termini prescrizionali per vedersi riconoscere gli arretrati sono comunque quinquennali, i cinque anni, per cui abbiamo un po' di tempo, non affoghiamoci subito ad andare. Possiamo lasciar passare agosto, ma magari sai, forse anche questo non è esatto, però da settembre mettiamoci in fila in coda a qualche sportello IMSS o ad un CAF per farci fare un check up della nostra situazione previdenziale, se questo assegno genera in noi qualche dubbio, quello che arriverà ad agosto. Intanto ancora numero verde a vostra disposizione 800 24 00 24, dove ti piacerebbe andare? Io vorrei andare a Genova, da sì, Sergio. Anch'io ci andrei volentieri, ma vediamo un po' Sergio se ci ospita magari a cena. Sergio, buonasera. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto, Sergio. Io volevo porre questo quesito. Io ho una pensione IMSS di 1.064 euro mensili netti. Sì. E una in Asarco di 800 euro bimestrale, perciò 400 mensili, sempre netti. In più, in questi anni, fino a quest'anno, ho svolto un'attività di consulenza, pertanto ho del fatturato migliore. Volevo sapere se ho diritto al rimborso o no, e se lo devo richiedere eventualmente. Allora, Sergio, si fermi lì. Intanto, la pensione IMSS e il trattamento pensionistico in Asarco, che è quello del mondo del commercio, dottor Venanzi, si parlano tra di loro, questi due trattamenti pensionistici si cumulano ai fini anche della considerazione di questa rivalutazione bloccata e adesso sbloccata? Si effettua il cumulo, le posizioni dovrebbero essere note, il condizionale d'obbligo, perché esiste comunque il casellario centrale delle prestazioni attive, quindi dei trattamenti erogati dall'INPS e degli altri enti previdenziali. Dalle somme nette che ha detto l'ascoltatore Sergio, di fatto supera sicuramente i 1.500 già netti di suo, quindi avrà diritto a una perequazione. Bisogna vedere il lordo dei due trattamenti in quale fascia lo farà ricadere. Verosimilmente dovrebbe ricadere tra 4-5 volte o tra 5-6 volte il trattamento minimo. Quindi restituzione del 20% di quello che era stato bloccato. Sì, esatto. Vedi? Fin lì ci sono arrivata quasi in automatico. È il trascinamento che è il mio ostacolo, lo zoccolo duro. Mette in crisi un po' tutti il trascinamento. Esatto. Secondo lei vale la pena farci una puntata apposita, Venanzi, o è meglio non deprimere il nostro ascolto? Diventa abbastanza difficile perché l'aspetto è molto tecnico e soprattutto è solo numerico, tant'è che anche la circolare 125 non si è addentrata più di tanto. Anche all'INPS hanno detto non ha fatto l'esempio. Allora, vabbè, andiamo alle cose semplici da spiegare, quelle che interessano i nostri ascoltatori. Peraltro, tra tre minuti chiudiamo, Venanzi, ma noi avevamo anche più o meno preparato una scaletta, poi in realtà è con le domande degli ascoltatori che ci piace di più proprio concretizzare i termini delle questioni che affrontiamo. Che cosa non abbiamo detto fino a questo momento che vale la pena però trasmettere da subito ai nostri amici interessati alla questione che ci stanno seguendo da casa? Poi andiamo ad altre domande. Gli aspetti principali li abbiamo esaminati, perché abbiamo visto le riliquidazioni d'ufficio, i soggetti che devono presentare domanda, il modulo di domanda verosimilmente è bravo, già bravo, perché c'è chi non lo trova da nessuna parte, chi vuole già attivarsi con la domanda, per esempio qualche erede all'ascolto vorrebbe già subito compilarla ma non lo trova, non è disponibile modulo? In questo caso potrebbe utilizzare, visto che non è stato emanato uno ad hoc specifico, il modello AP23. Ah, e lo trova sul sito dell'INPS? Sul sito dell'INPS, sì. Bisogna attivarsi col PIN dispositivo o è libero? È libero. Benissimo. Nel senso che è una domanda che al momento, da quello che sto vedendo, perché sono davanti al PC, è un PDF da compilare, bisognerebbe entrare con i PIN personali e verificare se è una domanda compilabile online. Se magari ci sono già, il riferimento è questo. Come Fabio Venanzi multitasking, parla con noi, guarda il PC. Quasi come una donna che camperà un sacco di anni. Peraltro ci ribadisce i termini, li sai, li hai scritti? AP23. Valentino da Bergamo, le assegniamo l'ultima domanda di oggi. Grazie, sono molto felice di poter parlare. Dunque, io sono un pensionato di 67 anni, a 65 anni ho preso quella dell'INS, della Enasarco. Io percepivo prima dell'INS 1.350 euro. poi ho fatto 65 anni, ho preso quella dell'Enasarco e subito erano, erano 1550 ogni due mesi. A fine anno ho cominciato a decurtarmi, adesso vengo a prendere IMSS 1130 e Enasarco 1178 ogni due mesi. E non so cosa devo fare. Allora, perché questa decurtazione così pesante gli è stata combinata, imposta a Valentino? Immagino che riguardi, non c'entra nulla la perequazione, no, è solo una questione di tassazione, perché quando un soggetto risulta titolare di più trattamenti pensionistici, la tassazione IRPEF, che sappiamo tutti essere a scaglioni, viene effettuata in proporzione, ma considerando la sommatoria di entrambi, o meglio di tutti i trattamenti pensionistici in godimento. Quindi nel momento in cui il casellario centrale è operativo e interseca in base al codice fiscale di Valentino i due trattamenti pensionistici, effettua di fatto un conguaglio, certo. Da un punto quindi di vista è solamente fiscale. Una questione fiscale, non ha nulla a che fare con il blocco delle rivalutazioni operato tra il 2012 e il 2013, ma magari ad agosto gli arriva qualcosa per compensare se quindi niente aveva trascinamento subito. Noi ci trasciniamo stancamente verso la puntata di domani invece, dove io non ci sarò per tre giorni. Mi hai lasciato dei begli argomenti almeno, sì, sì. Ottimo, allora, lo promettiamo ai nostri ascoltatori. Grazie, un abbraccio a Fabio Venanzi per la sua disponibilità di oggi. Noi intanto ci fermiamo qua e voi vi sentirete domani. Buon weekend domani. Lungo, cara mia. Grazie, vi penserò a lunedì, ciao.